Salve a tutti, io sono Roberto Marin, uno dei tanti fortunati componenti del gruppo di Runtime Radio. Io ho conosciuto Pizzi, o meglio, ho ascoltato Simone Pizzi, il patron di Runtime Radio, ai tempi di Italian Podcaster Network. Stiamo andando molto indietro nel tempo ed io ero all'inizio del mondo del podcasting. Ero come tutti quanti voi, ero un semplice ascoltatore. Ho ascoltato un po' di puntate del network e mi era piaciuto subito Simone Pizzi perché è sempre stato tagliente nei suoi giudizi e soprattutto la cosa interessante è che i suoi giudizi erano sempre molto intelligenti. Mi aveva attirato questo suo aspetto e poi, nel corso delle puntate, aveva fatto capolino un personaggio che si chiama Alex Raccuglia. Alex Raccuglia è il papà formale del mio podcast e della mia nascita come podcaster e all'epoca l'avevo ascoltato sulle onde di IPN e poi ho seguito le sue orme in Justin Tech di Justin Rosati e poi sui suoi podcast. Fino ad allora io sono sempre rimasto un normale ascoltatore ed ero molto avido di podcast, ne ho ascoltati di tutti i tipi, forme, dimensioni con le qualità audio più becere fino ad arrivare alle qualità audio eccelse che contraddistinguono anche questo network. Un bel giorno Alex Raccuglia è uscito con un podcast che si chiama MDB Summer Radio. MDB Summer Radio è la costola di morti di bestemmie che fa parte anch'esso del network Runtime Radio. La particolarità di questo podcast è che vengono riprodotte delle musiche che sono molto affini al mio sentire. Alex Raccuglia ha praticamente i miei stessi gusti e un giorno, dopo qualche settimana in cui gli facevo veramente i complimenti per questa Summer Radio che per me era ossigeno perché c'era tutta musica che mi piaceva, dicevo, un bel giorno Alex Raccuglia ha fatto la fatidica domanda dalla quale è cambiato tutto il mio universo di podcaster. Mi ha chiesto semplicemente se volevo partecipare con una mia playlist in una puntata di MDB Summer Radio. Da lì è iniziato tutto. Ho iniziato a collaborare sempre più spesso con Alex fino a diventare quasi il coautore di questo podcast e visto che mi trovavo abbastanza a mio agio davanti al microfono anche durante le dirette, Alex mi ha fatto la seconda mitica domanda che è stata: che ne dici di fare un podcast di architettura? Io sono sempre stato molto impaurito perché per me era una cosa nuova. Fino ad allora non avevo mai fatto podcasting, non sapevo neanche come si caricavano i file MP3 e come si faceva tutta la trafila, ma per fortuna la famiglia di Runtime Radio mi ha accolto, Simone Pizzi mi ha spalancato veramente le porte, mi ha detto fai quello che vuoi, è carta bianca, se hai bisogno di supporto noi siamo qua. E sono stati così tanto di supporto che io, francamente, l'unica cosa che devo fare è mettermi davanti al microfono e parlare. Io devo fare solo questo, caricare il file MP3 in questo spazio che mi è stato concesso da parte di Runtime Radio e di cui io faccio parte, ma ne sono molto orgoglioso e ringrazierò infinitamente sia Simone Pizzi che Alex Raccuglia per avermi dato questa possibilità di dare voce alle mie passioni. E quindi rimane solo una cosa, ragazzi miei. Runtime Radio è la casa di molti podcaster che hanno iniziato dal basso, da ascoltatori, e hanno avuto la possibilità di passare dalla parte opposta cercando di dire qualcosa per intrattenere tutti quanti voi. L'unica cosa che possiamo dire tutti assieme è davvero grazie. Grazie a Runtime Radio.